confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza. In tutti i tuoi passi pensa a Lui ed Egli appellerà i tuoi sentieri. Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore, non aver a noia la sua esortazione, perché il Signore corregge e ti ama come un padre il figlio prediletto.